Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, si sta per concludere un anno in cui abbiamo ricordato un compleanno importante per l'Italia, cioè il 70° anniversario della Repubblica. Una efficace ricostruzione di questi 70 anni della nostra storia troviamo nel libro di uno storico dell'Università Cattolica, Agostino Giovagnoli, che ha scritto La Repubblica degli Italiani. 1946-2016 è pubblicato dalla Terza, 362 pagine, 24 euro. Perché questo titolo? Perché, spiega l'autore, nonostante gli indubbi successi che sono stati conseguiti in questi 70 anni in termini di sviluppo economico, di cambiamento sociale, gli italiani appaiono essere insoddisfatti per varie ragioni legate alla contingenza, ma, scrive Giovagnoli, anche perché più divisi e meno partecipi di un destino comune. Sebbene sempre più vicini e più simili gli uni agli altri, scrive l'autore, gli italiani hanno fatto costantemente fatica a riconoscersi quali membri della stessa comunità nazionale. L'unità degli italiani, insomma, è apparsa ancora più problematica. Per molti anni questo senso di appartenenza era stato garantito dalla presenza di gruppi dirigenti che pure ci sono stati, che sono apparsi coesi, come dice l'autore, che aggiunge anche l'importanza di un'unità popolare che si rivelava più profonda di quanto apparisse. Era importante anche la presenza di partiti forti, la Repubblica è nata infatti da un cammino consensuale, un cammino che cominciò appunto con l'accordo di Salerno, che segnò l'accordo, scrive Giovagnoli, tra i partiti diversi per fondare una nuova convivenza politica. Poi cambiamenti sempre più impetuosi, manifestatisi soprattutto a partire dalla fine degli anni Ottanta, a tutti i livelli e in tutto il mondo, hanno accelerato la fine o la crisi di un modello e soprattutto hanno visto il fallimento della capacità dei partiti di riformare le istituzioni e hanno visto anche lo smarrimento di quella logica consensuale che aveva segnato l'inizio della Prima Repubblica. Con la Seconda Repubblica, scrive l'autore, è iniziato un nuovo corso senza che i principali soggetti della politica italiana stringessero un solido patto costituente e in assenza di un progetto unitario come quello che aveva ispirato la classe dirigente italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Allora, su questo sentiamo l'autore. Buonasera da Agostino Giovagnoli. Buonasera. Agostino Giovagnoli, nell'introduzione a questo suo libro lei insiste molto sul distacco degli italiani da un sentimento di comune appartenenza. Quali sono stati gli elementi principali che spiegano questo sentimento, questo processo? Come si è formato questo atteggiamento? Direi che ci sono cause remote e cause prossime. Le cause remote sono quelle che hanno a che fare con la formazione dello Stato unitario in Italia, che è stata una formazione tardiva e complicata, come sappiamo, e sono rimaste delle eredità permanenti. Insomma, il fatto che gli italiani non sentano lo Stato come una realtà vicina, almeno molti italiani, certamente è un frutto di questa storia, appunto di una lunga storia preunitaria e poi anche postunitaria, e quindi c'è una fragilità, diciamo, del senso civico che è stata denunciata molte volte e così via. Poi ci sono delle cause più recenti e direi che c'è anche e soprattutto il processo di globalizzazione che è in corso e che rende inquiete, insicure molte realtà nazionali, non solo quella italiana, ma anche se qui in Italia si sente di più perché appunto ci sono queste radici, insomma c'è questo pregresso. Volevo appunto chiederle questo: secondo lei questo sentimento che lei stesso diceva a causa della globalizzazione si sta diffondendo anche in altri paesi, i due processi vanno insieme, si autoalimentano, questo processo a livello internazionale e quello che storicamente è la tradizione italiana? Io penso di sì, penso che l'Italia risenta, come accade poi spesso in realtà in modo più acuto, problemi che naturalmente sono condivisi da altri paesi europei, e quindi questo spesso ci dà una sensazione, come dire, di peculiarità italiana, l'Italia non è un paese normale, eccetera eccetera. In realtà ovviamente l'Italia è un paese europeo come la Francia, come la Germania, risente gli stessi processi e così via, però c'è in più questa ipersensibilità, diciamo così, che è proprio legata un po' alla fragilità della sua storia, alla realtà di un paese che ha conosciuto nel tempo influenze molto diverse al suo interno, che tuttora è un paese molto articolato e variegato. Ecco, è chiaro che tutto questo rende l'Italia e gli italiani più esposti ai venti della storia, e oggi il vento della storia è appunto il vento di una globalizzazione che tende a lacerare il rapporto tra il popolo e le classi dirigenti, lo dico in termini un po', diciamo, schematici, che poi appunto è un fenomeno globale e che noi abbiamo risentiamo con le peculiarità che sono proprie della nostra storia. Torniamo a 70 anni fa, quando la globalizzazione ancora non c'era o non era sviluppata o stava per avviarsi. Nel suo libro lei sottolinea come il nostro paese, la politica, sia nata soprattutto basandosi su una logica consensuale. Ecco, questa logica, questa pratica consensuale poteva reggere secondo lei per 70 anni? Poteva diventare la chiave di volta della politica? Poteva rimanere la chiave di volta della Repubblica negli anni successivi? E non ci sono stati anche dei costi in termini di difficoltà a prendere delle decisioni determinate da questa logica consensuale? Ma io credo che sono vere tutte e due le cose, cioè la logica consensuale poteva anche restare, almeno in parte, negli anni più recenti, perché poi nella storia niente, come dire, è obbligato, tutto è possibile, insomma sono sempre le scelte degli individui e dei popoli che fanno la storia. Detto questo, è chiaro che le trasformazioni degli ultimi decenni hanno reso più complicata una logica consensuale, l'hanno indebolita o l'hanno indotta a trasformarsi in qualcos'altro. Per esempio il consociativismo degli anni Ottanta, che certamente ha avuto un effetto molto nefasto sotto tanti punti di vista, basta pensare al debito pubblico, era presente in qualche modo una forma di degenerazione della democrazia consensuale. D'altra parte oggi noi ci rendiamo conto che la totale eliminazione di elementi di democrazia consensuale rendono talmente esasperato il dibattito politico, talmente frammentate le posizioni da farci in qualche modo, non dico rimpiangere un passato che non può tornare come ovviamente tutti i passati, ma forse un maggiore equilibrio, ecco, fra elementi dinamici di maggior decisionismo che possono essere certamente opportuni in una fase come questa, però anche degli elementi che ci permettano, come dire, di prendere insieme le decisioni fondamentali e anche un po' una maggiore armonia nella quotidianità, ecco, che forse, diciamo, negli ultimi anni è mancata. E su questo ha inciso molto anche la fine dei partiti tradizionali, che lei descrive come un elemento di stabilizzazione, almeno all'inizio appunto della storia repubblicana, in particolare la DC, che definisce il vero e proprio partito della nazione. Sì, è così. I partiti di massa hanno svolto un ruolo indubbiamente importante e che oggi naturalmente noi vediamo con occhio critico, perché poi i partiti di massa sono stati un grande passo avanti verso la democrazia, ma certamente contenevano anche degli elementi che non erano elementi di piena democrazia, di valorizzazione dell'individuo come oggi giustamente vogliamo che sia. Il punto è che scomparsi quei partiti anche in modo un po' traumatico, nient'altro ne ha preso il posto, quindi qui è chiaro che non possiamo e non dobbiamo rimpiangere il passato, però le funzioni che i partiti hanno svolto, in primo luogo quella di una formazione di una classe dirigente che aveva solidi legami col resto della società, ecco, questa è una funzione che i partiti hanno svolto che oggi è essenziale anche oggi, ma non ci sono soggetti o ci sono poco soggetti in grado di assolvere a questo tipo di funzioni. Ma forse non ci sono anche perché mancano gli ancoraggi tipo ideale, allora i partiti hanno funzioni perché c'era il comunismo, c'erano gli anticomunisti, oggi tutto questo è diventato molto più fluido, si direbbe. Sì, sì, questo non c'è dubbio, c'erano grandi ideologie che permettevano una coesione ovviamente oggi impossibile. Però se noi guardiamo attentamente al dibattito politico attuale, non si può dire che sia un dibattito meno ideologico, non ci sono le grandi ideologie, però ci sono tante piccole ideologie e tanti atteggiamenti ideologici. Per cui io credo che il punto è piuttosto un altro, cioè è quello di ricostruire, ecco, il discorso sulla democrazia consensuale, il senso che come dire, ci si salva insieme nella tempesta della globalizzazione, oppure no. Allora qui io credo c'è una grossa responsabilità delle classi dirigenti, non solo in Italia, per la verità in tutti i paesi, che hanno, si sono, come dire, adeguati ai processi di globalizzazione più o meno felicemente, ma come dire, non sono più stati in grado di rappresentare degli interessi complessivi. Naturalmente poi c'è anche la colpa di, come dire, di chi non si riconosce o non dà fiducia alle classi dirigenti, ecco, sono sempre processi che hanno più responsabili, non uno solo. Nella rottura del modello iniziale che poi portò alla Seconda Repubblica, un elemento certamente non secondario, come lei sottolinea, fu rappresentato da Berlusconi, nei confronti del quale anche la sinistra a un certo punto, lei scrive, parve svolgere un ruolo subalterno. Cosa ha rappresentato Berlusconi in questo passaggio? Certamente Berlusconi ha rappresentato un fattore molto importante di novità, questo gli va riconosciuto anche da parte dei suoi critici, appunto la stessa componente di centrosinistra che si è opposta a Berlusconi lo ha fatto senza una capacità di progettazione ampia come quella di Berlusconi, per questo subalterna, cioè non è solo una subalternità politica, è anche una subalternità culturale. Berlusconi ha interpretato, forse in anticipo rispetto ad altri paesi, oggi ce ne rendiamo conto, appunto delle tendenze che sono le tendenze, come le chiamerei, post-politiche per certi aspetti, e quindi appunto senza nessun timore reverenziale verso le prassi consensuali, verso come dire, il rispetto dell'equilibrio tra le istituzioni e via dicendo. Nel complesso poi c'è da valutare se l'azione berlusconiana è stata positiva o negativa del paese, o in quali aspetti è stata positiva e in quali negativa, ma non c'è dubbio che Berlusconi ha avuto una grande capacità di capire il tempo e di interpretarlo. E allora come restituire un po' di fiducia agli italiani? Ma io credo che la storia abbia un piccolo compito da svolgere in questo senso, aiutando a guardare i problemi non con l'affanno della quotidianità, con la sensazione di vivere in continua emergenza, no? E su cui ci si spacca e si lacera come se fossimo davvero sempre sull'orlo del burrone. In realtà questi 70 anni sono anni che ci lasciano un'eredità molto positiva, quindi forse a partire da questo io credo che possiamo guardare gli altri italiani, diciamo, tra di noi con maggiore fiducia, non per chiuderci in una logica nazionalistica che non avrebbe senso o cose di questo genere, ma per capire che se uniamo le energie forse i problemi anche più difficili diventano risolvibili. Grazie ad Agostino Giovagnoli, autore della Repubblica degli Italiani. Buona serata. Grazie. Sul primo periodo della storia d'Italia segnalo il libro di Guido Formigoni, Storia d'Italia nella guerra fredda, 1943-1978, è pubblicato dal Mulino, 686 pagine, 35 euro. Questo è un libro che studia soprattutto il rapporto che ci fu in quegli anni, gli anni dell'immediato dopoguerra, tra la guerra fredda, tra le grandi scelte di politica internazionale, le politiche interne, le posizioni dei partiti. Furono degli anni nei quali appunto l'influenza delle grandi potenze, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, si fece sentire e condizionò in qualche misura l'operato dei partiti, ma dice Formigoni, in misura forse minore di quanto noi pensiamo. Nel libro infatti ci sono dei sorprendenti particolari che dimostrano come l'Italia e i partiti italiani fossero capaci di posizioni autonome, e quindi viene smontata una visione un po' tradizionale dell'influsso che appunto la guerra fredda ebbe sulla politica italiana. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo cominciato la settimana scorsa a segnalare qualche bel libro che può essere utile come strenna, e allora ve ne segnalo altri in questa puntata. Innanzitutto con un libro molto bello per gli appassionati d'arte che si intitola Masaccio, di Alessandro Cerchi, che è uno storico dell'arte fiorentino, pubblicato da 24 Ore Cultura, il marchio dello stesso gruppo al quale appartiene questa radio. È un libro di grande formato, ricchissimo di illustrazioni, 366 pagine, costa 99 euro. ci presenta un protagonista assoluto dell'arte non soltanto italiana, che, come già scrisse Vasari, ebbe atteggiamenti bohemien ante litteram, così dice l'autore. Masaccio fu infatti una figura di artista sorprendentemente moderna e attuale, dice Cecchi, intento solo all'arte, trasandato e dimentico della socialità del suo tempo. E qui, attraverso il percorso della sua vita, che come ricorderete fu brevissima, Masaccio infatti morì a 27 anni, troviamo l'opera di Masaccio segnata da alcuni capolavori assoluti che hanno cambiato la direzione dell'arte e dato inizio a quello che possiamo considerare uno dei filoni della pittura moderna. E infatti l'autore parla di arte, quella di Masaccio, che è attuale ancora oggi a distanza di quasi 6 secoli e che suscita ancora la nostra stupita ammirazione per la sua eccezionale aderenza al vero. Sempre sull'arte vi segnalo due libri più maneggevoli, forse abbordabili. Il primo è quello di Flavio Caroli, che è un altro storico dell'arte, che si intitola Il Museo dei Capricci, pubblicato da Electa, 412 pagine, 29,90 €. In questo libro Caroli ci illustra la collezione di un amico immaginario che vive all'ultimo piano di uno dei più recenti grattacieli di Milano. In questo appartamento, in questa magione, ha raccolto 200 quadri, per ora 200 riproduzioni, di grandissimi capolavori che Caroli legge in chiave attuale. Per esempio, all'inizio troviamo una carrellata di capolavori con delle figure umane alle quali l'autore affianca un contemporaneo assai somigliante a quelle antiche. Così, per esempio, troviamo Valentino Rossi uscire da un quadro del Tintoretto, Jovanotti da un quadro di Della Tour, Tognazzi da un quadro del Ceresa, De Michelis da Pietro Longhi, e la Littizzetto da Goya e tanti altri. E poi troviamo associati quadri con vedute celeberrime affiancati alle condizioni attuali di quegli stessi luoghi, oppure troviamo quadri scelti per soggetti, l'acqua, l'erotismo, il cibo, la musica, fino alle cronache d'oggi. Insomma, una chiave inconsueta per rileggere la storia dell'arte, non soltanto quella antica e non soltanto quella occidentale, una chiave che ci aiuta a cogliere, a scoprire dell'arte, soprattutto della pittura, aspetti assolutamente insospettati che ce la rendono più vicina e più amica. L'altro libro è quello di Lauretta Colonnelli, che è una giornalista culturale, che ha scritto 50 quadri dipinti che tutti conoscono, punto. Davvero? Il libro è pubblicato ad Edizioni Clichy, 334 pagine, 35 €. Anche qua troviamo dei capolavori assoluti e notissimi, da un affresco al Palazzo Pubblico di Siena fino al murale del 1989 sulla facciata di un convento di Pisa. Di queste opere l'autrice ci fa una presentazione, ma soprattutto mette in luce alcuni particolari che ci aiutano nella comprensione dell'opera, che magari ci è notissima per averla vista riprodotta chissà quante volte, ma sulla quale non ci siamo mai riusciti a soffermare davvero. Un libro per nostalgici, e col crescere dell'età temo che diventino sempre in numero maggiore, è quello di un'altra giornalista, una scrittrice milanese, Marta Boneschi, che si intitola I migliori oggetti della nostra vita. È pubblicato al Mulino, 360 pagine, 35 €. Da abito da sposa a vespa, in rigoroso ordine alfabetico, troviamo qui appunto una serie di oggetti che hanno seguito la trasformazione impetuosa del mondo. Ma, osserva l'autrice, quel che è curioso e qualche volta lascia sbalorditi è che i migliori oggetti della nostra vita non hanno modificato soltanto le abitudini materiali, ma il modo di pensare e di agire di chi li ha via via adottati. La mentalità manuale, aggiunge, quella meccanica e quella elettronica differiscono profondamente tra loro, e questa constatazione conferisce a quegli oggetti protagonisti della rivoluzione una dignità storica, economica, sociale e perfino filosofica. Naturalmente non si parla qui soltanto dell'uscita di scena di molti oggetti per la rivoluzione tecnologica, concorso a questo fenomeno anche il cambiamento di costumi, di mentalità, un cambiamento che ha radicalmente mutato anche oggetti che continuano nella loro spesso fortunata esistenza, a partire da quella che state utilizzando adesso, e cioè quella che vi permette di ascoltarmi, la radio, la cui evoluzione così Boneschi descrive. Quando sono solo in casa e solo devo restare. La stagione della gioia giovanile non si conclude con l'età adulta dei diciottenni che ascoltano Alto Gradimento, e anzi si perpetua quando finisce il monopolio Rai e proliferano le radio private, dove tuttora la ricetta vincente ha per ingredienti la risata e la musica, lo sketch demenziale e il pop, il rap e la battuta. Nascono altri talenti canori e talenti comunicativi, si moltiplicano le fonti di informazione, si interpellano gli esperti di Medio Oriente o di dermatologia, l'elenco non finisce mai, l'offerta di ascolto è sterminata e per giunta spunta la moda del far parlare la gente. Basta comporre il numero al telefono e, magia, milioni di persone ascoltano l'opinione del popolo. E a proposito di musica, vi segnalo Motown, il sound della giovane America di Adam White e Bernie Ailes. È pubblicato dall'Ippocampo, 400 pagine, illustrato da oltre 1000 immagini, 49,90 euro, tradotto da Claudia Valeria Letizia. Motown è una delle case discografiche più celebri degli Stati Uniti, fu una casa discografica indipendente di Detroit che contribuì a cambiare radicalmente il mercato della musica negli anni 60, 70 e 80. E questo fu uno dei primi successi di quella casa discografica, Please Mr. Postman, un disco che poi fu ripreso anche dai Beatles. Della scuderia di quella casa discografica facevano parte i nomi notissimi come Diane Ross, e qui nel libro troviamo molte immagini e molti testi per illustrare la storia di un marchio che diede il nome a uno stile musicale particolare. Addirittura si parlò di Motown Sound, e che si rivelò fondamentale per diffondere la cultura musicale afroamericana. Un approccio originale alla musica è quello di Stefano Zenni, che è docente di jazz a Bologna e che ha scritto Che razza di musica? Jazz, blues, soul e le trappole del colore, pubblicato da EDT, 182 pagine, 11,50 euro. Questo è anche un libro sul razzismo, anzi sul rapporto tra razzismo e musica negli Stati Uniti, nutrito anch'esso di molti pregiudizi, che cerca di studiare tanti aspetti multidisciplinari. E quindi troviamo una breve e critica introduzione al razzismo, un riferimento all'ibridazione del mondo bianco, per esempio attraverso l'influenza del mondo ebraico e degli italoamericani, per completare l'analisi sulle varie sfumature della musica nera. Infine vi segnalo il romanzo di Francesco Vidotto, che è un ex manager convertitosi alla scrittura e rientrato nel suo cadore, nel quale la musica svolge un ruolo importante. Il libro si intitola Fabbro, melodia dei Monti Pallidi, pubblicato da Mondadori, 172 pagine, 17 euro. Qui siamo sotto le Dolomiti, dove nel 1925 inizia la storia di Fabbro, figlio di un maniscalco segnato da una vita faticosa, nella quale però la musica sarà una sorta di accompagnamento, fino dalla scoperta di un organo in una vecchia chiesa cadorina. Ma la musica, anzi la melodia, qui è quella soprattutto delle montagne del Cadore, che segna appunto la vita del protagonista. E sentiamo appunto queste righe del libro sul rapporto tra musica e natura, che Fabbro interpreta a suo modo. I mantici di pelle di capretto si gonfiarono come polmoni e soffiarono aria alle tube. A quel punto schiacciai nuovamente i tasti e ne uscirono dei suoni, le note. Li provai in sequenza, prima quelli bianchi e poi i neri, uno dietro l'altro. Ci provai più volte di seguito finché mi fermai. Rimasi in silenzio. Guardai fuori dal vetro che avevo di fronte. Il vento si era rinforzato e tutto quanto il bosco cantava. Gli alberi, alti e robusti, si piegavano e ritornavano dritti in una danza sempre uguale. E scuotevano i rami nell'aria e le melodie erano infinite. Le Dolomiti, invece, subito dietro, stavano immobili. La roccia era ferma. I pinnacoli bucavano il cielo diritti e di pietra, come gigantesche canne d'organo. E le gole acceleravano l'aria che ci sbatteva contro e precipitava giù e suonava anche lei. Lì seduto in quella sera di tristezza infinita, riuscii ad ascoltare la voce della montagna. Pigiai ancora i pedali dell'armonium e aggiunsi vento al vento e poi poggiai le mani sulla tastiera e premetti i tasti, uno alla volta e poi due, e quelle note avevano un senso. Non so se fu mio padre che aveva passato tutta la vita a piegare il ferro a regalarmi la musica, oppure quel panorama, o semplicemente l'amore per Rina che non avevo mai detto a nessuno, nemmeno a me stesso. Sta di fatto che ne venne fuori una melodia, magicamente. Ultimi arrivi. Vi segnalo oggi tre nomi celebri. Il primo è quello di Stephen King, che ha ripubblicato Dance Macabre, è un libro pubblicato da Feltrinelli, 520 pagine, 20 euro, tradotto da Edoardo Nesi e curato da Giovanni Arduino, che ci spiega come questo sia un vero e proprio saggio, considerato un classico, che scrive, copre un intero trentennio dal 1950 al 1980 di cultura pop, esaminata attraverso la lente del horror, narrativa, film, TV, radio, fumetti e non solo. Dettaglio fondamentale è stato scritto nel 1981 da Stephen King. Poi vi due nomi italiani, un noto giornalista e saggista, Giampaolo Pansa, che pubblica Vecchi Folli e Ribelli, pubblicato da Rizzoli, 300 pagine, 20 euro, un libro sulle condizioni degli anziani in Italia, un tema da tutti accantonato e che invece presenta aspetti di grande importanza e interesse anche per la vitalità che moltissimi di questi anziani dimostrano. E infine un giornalista famoso, Paolo Mieli, che ha scritto In guerra con il passato, pubblicato da Rizzoli, 276 pagine, 20 euro. Questa è una rilettura spesso sorprendente di molti miti storici che vengono qui analizzati e demoliti, o di fatti recenti che mostrano inquietanti somiglianze con esperienze remote. E a questo punto... Il confettino. Una strenna particolarmente scenografica è un libro di dimensioni ragguardevoli, la copertina all'altezza di quasi mezzo metro, un libro di un personaggio molto caro ai giovani lettori, Geronimo Stilton, e questo si intitola Le origini del regno della fantasia, illustrato da Silvia Bigolini e Danilo Barazzi, pubblicato all'edizione PM, costa 79 euro. Un libro davvero scenografico, come dicevo, che conquisterà i bambini con le immagini, i giochi e i testi e anche i divertissement tipografici che fanno di ogni pagina una sorpresa. Con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.